a tutti, a tutte, ben trovati e ben trovati al bel compito di introdurre Roberto Marino, autore, come Roberto perché ci conosciamo, e Giancarlo Riccio, anche ci conosciamo, quindi certo. Do del tuo a tutti e ringraziare anche la Biblioteca Provinciale Claudio Busta e tutti voi per essere qui. Io purtroppo mi devo scusare, ma dovevo essere 20 minuti fa dall'altra parte della città, e però ci tenevo particolarmente a salutare Roberto e così ad accoglierlo, anche se non ci vediamo in tante occasioni, ma in questo caso formalmente qui al Centro Trevi, perché vi dicevo che questa, io ho già avuto modo di leggere, di apprezzare l'attività anche poetica di Roberto, e trovo che questa sua ultima, si dice in questi casi, fatica, diciamo, letteraria, ma in questo caso direi piacere letterario, colga già dal titolo, cioè, il titolo è geniale, secondo me, questa è la mia idea personale, perché in effetti richiama, no, Tempestiamo Bolzano, da un vate notto, si può dire così, no? Ecco, ho Bolzanino perché sono pensato. Certo, no, ma da noi abitanti, anche in questo caso abito a Lagris fisicamente, lui a Valdera come abitante, anche se naturalmente siamo, ci sentiamo bolzanini, siamo bolzanini, ma siamo anche persone che poi durante il giorno fanno la scuola, no? Fra la città e in questo caso quasi la campagna, no? Anche se la stessa Bolzano non è una metropoli, è una città di 100.000 abitanti assolutamente vivibile. E questo sentimento dell'amare la propria città e al tempo stesso in alcuni momenti di aver bisogno in qualche modo di marcare anche un momento di distacco, quindi di amare, di stare, di avere sentimenti, è una cosa che, insomma, nel titolo esprime anche, esprime e apre, diciamo, un mondo di scenari che poi, insomma, poi vanno approfonditi, letti, e comunque richiama, il titolo è già molto evocativo. E poi l'altra grande passione è quella sulla poesia. Guardate, io ero proprio questo pomeriggio, ero a Merano, prima ho inaugurato una scuola come assessore ai lavori pubblici, una scuola alberghiera, e poi però sono andato invece con la sola cultura e alla scuola alla giornata d'arte Alighieri di Merano. Ve lo racconto perché in quel consesso, dove appunto ci sono ragazze e ragazze, studenti e studentesse che hanno approfondito in particolare il piacere e l'amore per la lingua, che non è solo studio ma è anche passione, questo elemento fondamentale, appassionarsi della lingua e della cultura. Però lì, parlando, ho fatto una domanda, ho detto: guarda, io sono un grande appassionato di poesia, chi di voi legge poesia? E c'era una sala con 150 persone e nessuno ha alzato la mano. Allora un po' aspettavo almeno 10 così, no? Una, nessuno ha alzato la mano, detto, è possibile, adesso non siete timidi, alzate la mano. Allora ho fatto la domanda, cioè, chi scrive poesia? Perché molto spesso non si legge ma si scrive. E anche lì nessuno ha alzato la mano. Allora la presidente ha detto, ma tutti scrivono ma nessuno lo dice. E questa cosa però un po' mi ha inquietato, vi devo dire la verità, perché secondo me la poesia, invece, a me piace la poesia, quindi la passione che condivido con Roberto, immagino con tutti voi che siete qui, non è solo un genere letterario, ma è proprio qualcosa che aiuta a vivere meglio, ecco, lo dico così, la poesia aiuta a vivere meglio. E cimentarsi anche con la scrittura della poesia, ma anche con la lettura, la nostra grande tradizione, quella italiana, vicentesca, io così amo moltissimo Attilio Bertolucci, non so se lo conoscete, che è il papà, tra l'altro, dei registi, e oltre a lui, naturalmente, Montale, cioè, ma Attilio Bertolucci, perché lo dico? Perché secondo me io vorrei fare qualcosa sulla poesia proprio del Centro Trevi, sento questa esigenza, sento in qualche modo che il legame, la passione, il genere tale della poesia dobbiamo fare a Roberto, dobbiamo valorizzarla, e che viene poco praticata. Poi la poesia ha anche le sue chiavi di lettura, va in qualche modo stimolata. Qui poi la biblioteca di Augusta ci aiuterà in questo percorso. Allora, torno a Roberto. Roberto non è solo un lettore, ma è anche una persona che si è cimentata, ha scritto vari libri e devo dire di grande qualità. e poi con i poeti dell'Unterland, ma non solo, sono qui presenti, che sono appunto alcuni di cui sono qui, tiene una serie di rapporti e una serie di relazioni sia all'interno del nostro territorio che anche all'esterno. Quindi adesso mi fermo perché ho già parlato tanto, insomma, ma il senso anche del, credo, di questo lavoro e dell'appello e dell'invito che vi faccio è: partiamo, ripartiamo e segniamo un punto con la presentazione, insomma, di questa fatica letteraria, come si dice, e lavoriamo, l'invito che ti lancio, sia come autore ma anche come organizzatore, facciamo qualcosa perché anche nelle nuove generazioni si sviluppi questa passione per la poesia, perché secondo me in questo momento la poesia, anche in un mondo così difficile, così complesso, dove siamo bombardati da immagini, da messaggi che facciamo fatica a decodificare, perché noi abbiamo spesso il punto centrale avere la consapevolezza, la praticabilità del linguaggio attraverso cui decodificare un mondo complesso, quindi averne meno paura. Secondo me la poesia non è uno strumento, naturalmente, ma può essere uno strumento che aiuta, a mio avviso, a creare il linguaggio, la consapevolezza, la capacità per fermarsi un attimo e imparare a decodificare un mondo complesso. Adesso l'ho detto comprimendo molto una serie di ragionamenti, però questa cosa andrebbe sviluppata. Quindi grazie ancora Roberto, veramente complimenti, e questo è però è anche quasi una minaccia, non so, invito minaccia a lavorare insieme, a fare nei prossimi mesi anche un progetto proprio sulla poesia. Ci tengo molto e lo prendo come un sì. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. Scusatemi se partirò subito. Ecco, grazie allora all'assessore Tomasini che è venuto a introdurre questa serata, e cogliamo subito l'invito, quindi non ti perdiamo di vista. Effettivamente la poesia è un modo più elevato per raccontare la realtà e forse a volte anche per raccontare dei segreti che non si vogliono svelare, no? Ogni tanto c'è questo mistero, questo alone che l'avvolge. Sono molto contenta che finalmente con Roberto Marino siamo riusciti ad organizzare una serata che lo veda protagonista, perché è un personaggio noto, si è impegnato tantissimo in questi anni, come è stato già detto, e in biblioteca abbiamo le sue pubblicazioni. E sono anche particolarmente contenta di avere con noi questa sera Giancarlo Riccio, attento conoscitore della nostra realtà locale, è un giornalista del Corriere della Sera, ma anche lo è stato per tantissime testate importanti a livello nazionale, quindi con la sua capacità, conoscenza e sensibilità avremo davanti a noi una serata dove potremo conoscere meglio quello che è l'ultimo libro di Roberto Marino, dal titolo appunto particolare, particolarmente, ecco, indovinato. Ne approfitto sempre per fare così un breve spot della nostra attività. Se conoscete qualcuno che sta così o ha appena conseguito la laurea e si è occupato di qualcosa di interesse locale, la sua ricerca si è in qualche modo orientata su degli aspetti locali, noi ogni anno da aprile a fine ottobre raccogliamo le tesi e poi organizziamo appunto una consegna di cosiddetta premio Claudia Augusta, dove appunto riceviamo le tesi, le cataloghiamo e ci servono come documento per la nostra ricerca, per la nostra attività di documentazione. Sempre nell'ambito della ricerca in Alto Adige, poi nell'anno successivo al premio invitiamo alcuni degli studenti che aderiscono al nostro invito o che sono presenti sul territorio a così organizzare una conferenza e presentare il proprio lavoro. E volevo appunto segnalarvi che il 28 di maggio, giovedì, sempre presso il Centro Trevi, sarà la volta appunto di una tesi di Francesco Natalini che riguarda le foreste in Val Venosta. Ecco, adesso il titolo preciso è Relazioni Clima-Crescimento su Albies, parlerà dell'abete rosso e quindi queste forme di alberi, insomma, le difficoltà che ci sono in Val Venosta, le origini e le cause che ne hanno appunto caratterizzato questa desertificazione, questa sono degli aspetti che riguardano il nostro territorio, se vi interessano, ecco, siamo qui anche giovedì prossimo. Vi cedo subito la parola, vi ringrazio ancora e ringrazio tutti voi augurandovi una buona serata. Buonasera a tutti, vi come Anale, sono in Africa. Devo ringraziare l'assessore che è già andato via, al quale avrei fatto notare che ha detto meglio di me le cose che volevo dire io, quindi vabbè, guardate bene, guardate il lato buono della cosa, sarò più breve, visto che Cristian Tomasini ha già detto alcune cose. Grazie moltissimo alla dottoressa Trevisan e alla sua squadra, se non fosse per persone come loro, anche naturalmente le persone che lavorano qui a Centro Trevi, Bolzano sarebbe un'altra cosa, e vi assicuro che continua a essere una realtà davvero importante, noi che giriamo il mondo, come si sarebbe detto una volta, e possiamo esserne orgogliosi anche senza ritenerlo l'unico posto al mondo, tutt'altro, la poesia ci insegna il contrario, ci segnala il contrario. Ci sediamo, visto che è una cosa più colloquiale con sì, c'è anche la sedia, quindi non facciamo. Allora, naturalmente parleremo del libro, ma le cose che diceva Tomasini, noi giornalisti siamo sempre cattivi con i politici, ma dobbiamo anche riconoscerne in alcuni frangenti le intuizioni, non sono cose peregrine e sono supportate da più di un segnale. Pensate che ci sono un paio di quotidiani, mi viene in mente La Stampa, che non viene letto moltissimo a Bolzano perché, come sapete, ha una diffusione nazionale, ma viene letta soprattutto nell'area nord occidentale, la sede centrale è a Torino. Ha indetto da poco un concorso di poesia. Se un giornalone come La Stampa fa questa cosa, vuol dire che ci sono state delle persone che prima hanno pensato se era il caso di farlo o meno, e lo stanno facendo. Non conosco i risultati, chiederò ai miei vecchi amici dei tempi andati, che adesso hanno posizioni di gran rilievo in quel quotidiano, come sta andando. E poi c'è un'altra cosa da dire. L'inserto letterario del mio giornale Il Corriere, qualche settimana fa, c'era un ampio articolo di Michael Krüger. Chi è questo signor Krüger? Krüger è un signore che è nato nel 1943, quindi insomma ne ha viste di cotte e di crude, scrittore, poeta, e anche lavora in una importante casa editrice. Ha scritto un articolo per l'inserto letterario del Corriere, di cui vi leggo le prime 3-4 righe. Scrive Krüger: per la prima volta da oltre 30 anni, all'improvviso una raccolta di poesie entra nella classifica nazionale dei libri più venduti, non più letti, più venduti. Qui dovremmo aprire altre parentesi, ma magari lo faremo nel dibattito dopo, insieme con Roberto, ovviamente. Questa antologia si chiama Regenton and Variationen, lo sapete, variazioni su barili di pioggia. L'autore è Jan Wagner, non credo parente, discendente di quell'altro. Questa antologia di poesia ha vinto molti premi, e siamo già al terzo segnale. La, devo dire, molto puntuale annotazione dell'assessore Tomasini, quella altrettanto autorevole di Valeria Trevisana, che è stata molto convincente per quanto riguarda l'autore di questa sera, che è fin troppo generosa con me, grazie, la ringrazio molto e pubblicamente. Altri segnali siete voi, e siete segnali più belli e più importanti. Ovvero, qui parleremo per un'oretta, e soprattutto ascolteremo ovviamente l'autore, di poesie e di poesia con la A. Navigando in un mare, come raccontava Cristian Tomasini prima, in cui può accadere tranquillamente che in una scuola superiore di una città colta, una cittadina colta come Merano, gli studenti non abbiano piacere di raccontare né se scrivono né se leggono poesia. Il fatto di essere in 30, giovani e forti, le signore sono anche molto belle, quindi sono due volte benvenute, a parlare di poesia mi sembra un piccolo grande miracolo. A che cosa lo dobbiamo? Lo dobbiamo soprattutto a noi stessi, che abbiamo deciso di impiegare del tempo per occuparci di poesia, e questo mi sembra davvero straordinario. L'altro merito è ascrivibile ovviamente a Roberto Marino, che io l'altro giorno ho incontrato, perché a me capita ogni tanto di moderare e di presentare libri, prima o poi ne riscriverò altri anch'io, ma non credo che il Trevi accetterà di che io li presenti, quindi state tranquilli. Ma ci siamo visti l'altro giorno con Roberto Marino, gli ho fatto un po' di domande per capire un po', anche se mi era capitato anche di segnalare altre presentazioni, devo dire in contesti altrettanto onorevoli, ma non con il prestigio del Centro Trevi. Quindi è un piccolo esame anche per te, non so, e ancora in bocca al lupo, è un punto d'arrivo che peraltro ti meriti. Ci siamo raccontati un po' di cose, e la prima cosa che mi ha colpito, e arrivo subito alla prima domanda, è che ci fosse questo atteggiamento di Ode e Tamo, no? L'abbiamo studiato a scuola, la grande poesia romana, nel senso proprio dell'antica Roma, non romanesca, per cui questo atteggiamento contraddittorio, sofferto, anche difficile da rendere sia in prosa che in versi, del rapporto con la propria città. Voi sapete che moltissimi scrittori, ci sono, i poeti anche, si sono esercitati sulla città dove sono nati o quella comunque che è rimasta loro più maggiormente nel cuore. E già questo è una piccola grande palestra, perché parlare della propria città non è semplice, vuol dire rimuginare e rimescolare tante cose. Al confronto la mucca che fa tutte quelle cose quando digerisce è una che digerisce in un attimo, cioè è un processo lungo e neanche semplice. L'altra cosa, qualcuno che si occupa di marketing lo direbbe meglio di me, è che con questo libro, che vi invito a procurarvi, anche se credo molti già lo conosciate, risponde al vecchio slogan: prendi, paghi uno e prendi due. Perché questo libro è una è di fronte, contiene una parte molto consistente in prosa, e poi c'è una antologia poetica, peraltro mi spiegavi con divisa proprio in sottotematiche, in tematiche, eccetera. Quindi voglio dire, si fa un affare dal punto di vista anche dello stile e dei contenuti. La prima cosa che dunque, come suppongo avrete capito, ci sarà verso la fine di questo incontro sono previste alcune letture che sono ovviamente benvenute, ma altrettanto benvenuti saranno i vostri interventi, le vostre curiosità, se ne avrete, nei confronti di Roberto Marino, al quale cedo subito la parola con il sollievo di tutti, e gli chiedo già questa prima cosa: perché un libro che è per metà in prosa e per metà in poesia, non era meglio fra le due? Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti e ringrazio il professor Valeria Trevisan e l'amico giornalista Giancarlo Loriccio. Rispondo subito a questa domanda. E allora, inizialmente questo libro è nato con la parte di poesia, che erano dei testi raccolti in una decina d'anni. E Marzia Todaro di Trento, che è la vicepresidente del gruppo Poeti di Mitterrand, del quale io sono presidente, e qui questa sera ci sono anche altri amici dello stesso gruppo, c'è cioè Anna Chelodi, Bettina Said, che è anche l'autrice della copertina, e c'è Emilia Manini. Ecco, Marzia Todaro ha avuto la bella idea di fare un assemblaggio di queste poesie che erano scritte nell'arco di una decina d'anni, e le ha suddivise in cinque tematiche. E quindi era pronto il libro a uscire solo un libro di poesia. Poi io mi trovo in un periodo particolare in cui avevo diciamo, fatto una raccolta dentro di me di vari pensieri che avevo accumulato nel tempo e ho pensato, provo a buttare giù qualcosa in prosa. Ho buttato giù questo Bezzestano Bolzano, che è un rapporto un po' contraddittorio, delle cose che a me piacciono della città, delle cose che piacciono meno. E quindi è venuto fuori questo testo, me lo sono riletto e ci ho fatto delle modifiche e ho detto, ma sembra anche questo bello pubblicarlo. Allora dopo è venuta fuori l'idea di fare un libro che comprendesse sia la parte in poesia che la parte in prosa. E diciamo, ho provato e adesso sembra che mi piaccia, e anche se all'inizio avevo qualche dubbio perché alcuni sostengono che o si fa poesia o si fa prosa. Ho provato e insomma il risultato mi sembra che è abbastanza buono, perché sembra che sia gradito dal pubblico, particolarmente dalle donne. È vero? È vero quello che. Sì. È vero che soprattutto il Signore, le ragazze, il Signore. Cioè, la poesia è felicemente asessuata, no? O forse talvolta ipersessuata, no? Dipende poi dalle circostanze, però insomma è anche vero che quando uno scrive poesie di solito ci mette dentro tutto, no? Quindi le proprie esperienze, le proprie storie e queste cose qua. Questo è un libro per quanto riguarda l'antologia poetica, che è stata, per rimanere nel tema del fabbricamento, concepita a che periodo? Cioè, sono molto recenti o sono... Sono una decina d'anni, perché l'ultimo libro di poesia l'avevo fatto nel 2004, quindi questo dal 2004 al 2014 erano vari testi, poi alcuni, diciamo, ne ho scritto parecchi, però alcuni li ho buttati via perché non mi piacevano. La caratteristica che io è che quando scrivo qualcosa, anche nell'arco del tempo, anche se dopo 10-15 anni, non le modifico. Cioè, o le butto o le tengo. Perché dico, in quel periodo io ero così, è inutile che sto a modificarle, perché in quel momento io ero fatto così, inutile che sto a metterci delle modifiche. Torniamo un attimo alla parte in prosa, anche se credo che il nostro focus, anche grazie a voi e ai vostri interventi fra poco, sarà più che altro sulla parte di antologia poetica di questo libro di Roberto. Invece appunto la parte in prosa è un atto di dire più di amore che di disamore verso Bolzano, no? Questi giorni abbiamo un po' di pensieri, non sappiamo se ci sarà un governo cittadino o meno, non è questo l'ambito in cui parlarne, confidiamo che ci sia comunque, come dire, una situazione che potrà garantirci di andare ancora avanti con un vero progresso per l'economia, per la cultura, per la scuola, eccetera. Quindi pare che sia anche cattivo tempo domenica, quindi avremo tempo per chi vorrà, per esercitare nella direzione che crede, ci mancherebbe altro, il proprio diritto a votare. Ma ecco, quando uno scrive della propria città, non lo so, deve essere digiuno, deve aver mangiato leggero, deve essere ben riposato, oppure può scrivere in qualunque momento, perché scrivere nella propria città non è un esercizio da poco, è come fare 30-40, adesso non so, io vado in bici per poco, poi mi fermo perché sono un vecchietto, ma insomma è anche un esercizio fisico, no? Non solo psicofisico. Quindi quando si scrive nella propria città bisogna aver mangiato solo riso bianco, metaforicamente, o no? Ma diciamo che io scrivo la mia città perché, pur abitando non a Bolzano, però ci vivo sempre a Bolzano, cioè mia nonna era di Bolzano, mia madre è di Bolzano, ho amici, ho lavorato diversi anni a Bolzano, ci vengo regolarmente, e quindi a me Bolzano piace, ci sono delle cose che non mi sono simpatiche, Però diciamo, per raccogliere queste idee, come chiedeva Giancarlo, giornalista, diciamo, io Bolzano la osservo molto perché mi piace anche molto camminare, come anche protagonista del libro stesso, e quindi io camminando, girando, o da solo, con la mia famiglia, o con i miei amici, anche con la professione che facevo prima, ero un vigile urbano a Bolzano, quindi annotavo diverse scene, diverse situazioni che diciamo, ho registrato dentro di me, e per buttare giù naturalmente ho bisogno di momenti di silenzio, quindi quando ho dei periodi di calma, allora butto giù le idee che ho dentro. E forse la particolarità di questo libro è questo protagonista, questo signor Contin, che è un cittadino normale, un cinquantenne, è arrivato a Bolzano quando era giovane, aveva un amico, questo amico è morto per overdose, ha fatto un breve riassunto. E quindi c'aveva, diciamo, questo amico, arrivavano entrambi dal Veneto e avevano un po' di antipatia verso questa città perché era poco accogliente, almeno per loro era poco accogliente. Poi lui è cresciuto, si è fatto una famiglia, si è sposato, questo signor Martin. Comunque lui è un semplice lavoratore di un supermercato, tutto fare, però è anche una persona, tra virgolette, colta perché gli piace studiare, approfondisce la letteratura, fa parte di un'associazione letteraria e anche è appassionato di politica. Quindi qua ci sono anche delle provocazioni. Lui, ad esempio, si candida sempre per dire nel Consiglio Comunale di Bolzano, non viene mai eletto, quindi è sempre usato un po' come gregario della politica. Ecco, lui tutte queste cose insieme le esprime con il suo modo di fare, con le sue amicizie. Ci sono vari capitoli dove si vede le amicizie che ha con gli altri appartenenti a questa associazione letteraria. E poi appunto lui nella vita che fa nel supermercato e anche nel quartiere dove vive, lui racconta un po' quello che succede nel supermercato, quello che succede nel quartiere, quello che succede si racconta nei bar, perché nei bar vengono commentati fatti che succedono realmente, vengono commentati in vari modi di maniera chi frequenta il bar. E nel libro appunto sono citati anche episodi veramente verificati se voltanti, con l'uccisione del cervo qualche anni fa, la morte del barbone nel Casumento, che era il barbone più famoso di Bolzano, Asso Vivo, nel Casumento, dove lui era solito rifugiarsi un po' per cercare cibo, un po' per cercare protezione. Quindi tutti questi argomenti qua vengono rivisti in forma un po' romanzesca, però sono anche fatti tragici in certi casi. Ecco, lui rivive tutte queste situazioni qua e nel libro sono poi esposti con un linguaggio un po' particolare, con un linguaggio da bar, da strada, da autobus, quindi oggettivamente il linguaggio di tutti i giorni, però con delle particolarità che ci fanno anche ricordare, c'è anche qualche punta filosofica. Ecco, questo è questo protagonista, questo signor Contini, che però appunto nella sua sfera del suo vivere quotidiano ci mette sempre un po' di poesia, quindi gli aspetti che detesta la società, dopo riesce anche a valorizzare principalmente, maggiormente, quelli che lui invece ama della città. Questo per quanto riguarda la parte in prosa. Quando l'hai finito, eri più innamorato o meno innamorato di Bolzano? Cioè, questo esercizio di scrittura ti è servito per, non so se avvicinarti di più o distanziarti un po' dalla città, ma quando hai terminato il manoscritto ti sei reso conto di volere più bene o di volere un po' meno bene a Bolzano? Ma senz'altro di volere più bene. Diciamo che lo sforzo fatto è stato quello di essere critico verso la città, però anche verso me stesso, perché qua non dico il protagonista, è critico verso se stesso, insomma, principalmente. Poi c'è queste contraddizioni che in parte detesta, in parte ama la città, e sono un po' le contraddizioni però che hanno diversi di noi. E, però appunto facendo questo esercizio di criticità verso questa città, dopo quelli che emergono sono maggiormente gli aspetti positivi, perché anche territorialmente Bolzano è bella. E poi è anche piacevole la convivenza dei gruppi linguistici, quindi dopo alla fine di questo esercizio di critica, tra virgolette, emerge l'amore. nonostante il Tristama, che peraltro è un titolo molto insomma azzeccato, no? Un calambur molto, molto elegante. Io contesto una cosa però subito, a con molto affetto a Roberto, c'è il fatto che sia stato scritto un po' così. Vi leggo, non sono un lettore professionista, quindi siate pazienti. Vi leggo tre righe e poi vi dico una cosa. Allora, a un certo punto, pagina 11, Giovanni e Anna si erano sposati dopo un breve periodo di fidanzamento, perché lei aveva fretta, aveva sempre fretta, fretta in tutto. Poi erano andati ad abitare insieme a Bolzano, nello stesso appartamento in cui adesso Giovanni convive con Elisabeth. Anna avrebbe voluto diventare presto mamma, diventare mamma di più bambini. Allora, io non voglio elogiare il protagonista del nostro incontro, Roberto Marino, in modo speciale, ma io questo qui lo sto rileggendo anche per lavoro, e certe volte questo lavoro lo benedico, altre volte no. Sto rileggendo molte cose di Calvino, che ho avuto il privilegio di conoscere insieme a tanti altri, perché non facendo il neurologo le letterato capita di incontrarli, questi qua è inevitabile, si va a cena insieme. Scusi, piacere, sono Italo Calvino. Immaginatevi come fossi paonazzo la prima volta. Beh, Calvino è uno di quelli che ha cambiato il mondo. Chi lo conosce meglio, suppongo, concorderà con me. Chi lo conosce meno, corra subito dall'Otrezza Trevisa e della sua squadra a farsi prestare i libri di Calvino. Il suo stile è uno stile che, come sapete, è molto avanza liquido, nel senso più nobile del termine, cioè lui teneva lezioni, scriveva per i giornali, scriveva romanzi, scriveva racconti fantastici, che non sono né racconti né romanzi, ma sono un'altra categoria ancora. Scriveva per i suoi amici compositori e tutto quanto. A me qua qualche traccia di Calvino mi sembra che ci sia. Tanti bar sono chiusi, non mi potrei offrire un caffè. Quindi, ma a me sembra, non mi sembra che ci sia così un quotidiano, uno stile quotidiano tirato via. Questa cosa di Calvino, da prendere con le pinze, per carità, perché poi ogni autore ha il suo esprit, ha il suo gefühl, naturalmente, però insomma, Calvino scrive così in certe cose. Sì, allora mi spaventa. Io quello volevo fare, spaventare. Qualcosa ho detto anch'io di Italo Calvino, naturalmente lui è maestro, diciamo, a me piace scrivere, quello sì, cerco di migliorarmi col tempo. E cerco di non copiare proprio, magari mi piace prendere qualche idea, però di mantenere un stile mio. E infatti mi fanno notare qualcuno che in questo libro, diciamo, le descrizioni a volte sono marginali, a volte non ci sono proprio di certi personaggi, di certi luoghi. E devo dire che questo però è un po' ricercato, perché a me piace non ricordarmi eccessivamente. E mi piace che le persone che leggono quello che scrivo abbiano la libertà di immaginarsi a modo loro, ognuno di noi è diverso, sia i personaggi sia le scene che si sviluppano nei vari capitoli. Quindi è un stile un po' ricercato. Ecco, quindi a parte la spigolatura di molto nobile e modesta di prima, abbiamo invece appurato che lo stile di Roberto è uno stile ormai, come direbbero i critici paludati, maturo, che non ho mai capito che cosa voglia dire per un libro, ma si usa così, lasciamoli scrivere. No, voglio dire, questo passaggio che vi ho letto, e poi abbandoniamo Calvino, che comunque ci vede dice dal cielo di sicuro, e mi ha fatto pensare, c'è un'antologia di Calvino che di racconti che si chiama Gli amori difficili, che è straordinariamente intenso, e uno di questi racconti è di una coppia di lavoratori giovani. Uno lavora solo di notte e una lavora solo di giorno, quindi si vedono di rado, anche sono molto innamorati, c'è una storia molto intensa, E allora, quando uno rincasa la torre di notte e poi dopo un po', però dopo mezz'ora, lei deve andare a lavorare a sua volta, e il processo inverso accade 12 ore dopo, lui o lei cercano il pezzetto del lettone dove ha dormito l'altro. Mi sembra una delle cose più belle di una storia d'amore, e probabilmente Calvino ci ha lavorato anche tanto per descriverla in modo così efficace. Quando si parla, quando Roberto scrive di Giovanni e Anna si erano sposati, mi pare che abbia questa cosa, che non vuol dire, intendiamoci, chiedo scusa se ho la voce un po' increspata, ma di questi racconti ho avuto il grandissimo privilegio di parlare con l'autore, e insomma anche i giornalisti hanno un cuore sicuramente piccolo e chissà dove, e quindi possono essere toccati. Non leggere tanto è una delle chiavi per scrivere più o meno bene. Tu quanto leggi e che cosa? Quali autori? Ma diciamo, io sinceramente leggo principalmente poesia, cioè, ho letto anche dei romanzi, chiaramente mi piace molto Milan Kundera, ad esempio, quello sì, in 3 anni ho letto anche io il Torino, però purtroppo mi piacerebbe leggere molto di più. Leggo, diciamo, in treno quando vado al lavoro, nel fine settimana, quando ho tempo libero, però vedo anche una famiglia, una figlia che fa di adolescenza, i suoi problemi scolastici, il tempo per leggere purtroppo poco. Leggo molta poesia perché faccio parte appunto di questo gruppo, e anche di un gruppo di Rovereto, il gruppo Poesia 83, il quale pubblica un bimensile dove tratta diversi autori tipo Bigongiali, Dino Campana, Aldo Merini, e anche autori esteri. Quindi, essendo abbonato, essendo amico di questi amici del Trentino, questi poeti del Trentino, leggo principalmente poesia. Romanzi ne leggo sì, ma purtroppo mi piacerebbe leggere molto di più, e quando andrò in pensione ne approfitterò per recuperare. Il tempo si trova sempre, per carità. Veniamo adesso alle poesie, alcune ci saranno lette sicuramente meglio di quanto di come ho letto io prima quel passaggio di prima, ma mi serviva per parlare un attimo di Calvino, e spero che mi abbiate perdonato. Questa cosa dei poeti di Unterland, vorrebbe dire terra di sotto, che però vuol dire cioè, comunque comprende un'area geografica e culturale importante, cioè l'Aves è il quarto comune dell'Alto Adige Südtirol, la sta avendo una rinascita importante e tutto quanto, c'è il volontaggio anche lì, quindi fermiamoci, è anche una metafora questa cosa dell'Unterland, oppure che cosa indica essere poeti d'Unterland? Ecco, ringrazio per questa domanda, perché non concordata, però è molto utile, essendo presenti qui gli amici di questo gruppo. Allora, poeti d'Unterland è un gruppo, siamo 7 persone, è un gruppo relativamente piccolo, che si è formato, diciamo, in basso Tesina, è vero, però il nome che gli è stato dato, poeti d'Unterland, è scritto tutto in minuscolo, non vuole dire che sono poeti della bassa Tesina, perché il nostro gruppo comprende persone che sono di Bolzano, di Baden, io di Cavalese, di Lavis, di Trento, e quindi questo nome è stato scelto per indicare diciamo i poeti di una terra di sotto, misteriosa, un po' fantastica, un po' particolare, e da dove possono uscire delle proposte letterarie. Infatti è emblematico il simbolo del nostro gruppo, che è una farfalla. E la farfalla, lo sappiamo tutti, prima è un verme, quindi sta nella terra, e questo appunto è l'emblema del nostro gruppo: prima sta nella terra, poi diventa farfalla e quindi si libera nell'aria. E questo vuole fare un po' il nostro gruppo, stare a stretto contatto con la realtà di tutti i giorni e magari anche nelle situazioni anche più scomode, appunto vivendo nella terra bassa, però facendo delle proposte che si possono liberare e prendere il volo. E le caratteristiche dei nostri incontri sono, facciamo appunto, leggiamo dei testi nostri, ma anche leggiamo dei testi di altri autori, e in questi incontri quindi accoglio molto volentieri l'invito della dottoressa Valeria Trevisan e anche di Cristian Tomasini di fare delle collaborazioni, perché nei nostri incontri appunto leggiamo anche testi di autori anche famosi, abbinandoli a delle descrizioni o degli aneddoti che magari non sono noti, non sono conosciuti e quindi interessano il pubblico, e dopo facciamo anche delle discussioni con il pubblico, sono anche delle cose piacevoli, quindi non è la poesia magari come si viene impartita a scuola, che c'è il professore che legge, quella. Diventa un dialogo, però anche piacevole, perché vengono riportate notizie che magari su certi libri non ci sono, vengono prese chissà dove. Su questo aspetto qua è molto brava la nostra vicepresidente Mazza Todaro, che per esempio ha conosciuto personalmente Alda Merini e ha fatto uno spettacolo, appunto, ha già presentato in diverse biblioteche, in diversi centri culturali, dove lei racconta molto suo, non solo i testi di Alda Merini, ma anche il suo stile di vita, come viveva, come le sue abitudini un po' bizzarre, la sofferenza che ha avuto negli anni che è stata ricoverata di coma. Ecco, queste sono le proposte che fa il nostro gruppo Poeti Unterland. Quindi appunto non della bassa tesina, ma ultra nel senso terra bassa. Terra bassa. Mi colpisce, essendo tornato in altro radio da pochi anni, ma anche se qui ho trascorso della serie Chi se ne frega, mi direte tutta l'infanzia e l'adolescenza, quando ero molto lontano dall'Italia e leggevo di tanto di giorni i giornali italiani, ogni tanto affioravano delle notizie anche sull'altro radio Sutilo, qualcosa che diceva Durnwalder, la tragicissima morte di un amico nostro importantissimo come Alex Langer e altre cose, e poi mi colpiva il fatto che vale tuttora, che di questa provincia, ma anche del Trentino un po' meno forse, pochi riescono a trovare le chiavi, molti ci vengono in vacanza, qualche giornalista ogni tanto scopre che parliamo più lingue e pensiamo in tedesco, italiano e anche in latino. Nel frattempo nessuno si accorge che sono arrivati, e la biblioteca provinciale, anche questo centro, ogni tanto li ospita e sono benvenuti cittadini di tutto il mondo, non soltanto della Val Gardena o della Val o della Val Costeria. E la domanda è questa: il fatto che si parli più lingue da bambini, secondo te è stato un viatico o almeno un aiuto, o al contrario un ostacolo per te per scrivere? Ma, diciamo, per me è stato un aiuto, perché ho avuto anche la fortuna di avere degli amici di lingua tedesca già da giovane, quando si giocava a calcio insieme, quindi già stare negli spogliatoi insieme, giocare insieme, si vince insieme, si perde insieme, quello mi ha aiutato. Poi mia moglie è anche di lingua tedesca, e ecco, quello anche, diciamo, aiuta a capire l'altra cultura. So che c'è la tendenza, ma più decenni fa, diciamo, di magari di cercare sempre le cose che dividono più di quelle che ci accomunano. Diciamo, c'è un passato comune, secondo me, che ha portato sofferenza a tutti, e sappiamo il periodo della guerra, quindi vi hanno sofferto 7 anni di crisi. Penso che ci siano più cose che, diciamo, che ci affratellano proprio, non solo ci fanno rendere come amici, ma proprio c'è una fratellanza su questo territorio, anche se c'è qualcuno che cerca di portare agli estremi che ne so, le cose banali, tipo la segnaletica, sì, quelle sono cose sui sentieri, no? Certo. Però stando insieme vedo la gente che quando va nel bar un po' parla in tedesco, un po' parla in italiano. Secondo me i bar poi sono dei posti anche di cultura, perché sembrano cose, cioè, sono locali dove si parla solo di banalità, invece vedo che si approfondiscono anche molte tematiche e vedo che italiani e tedeschi, i problemi che c'erano i tedeschi c'erano gli italiani e viceversa, cioè, sono cose che si accomunano. Certo, ecco, teniamoci per tra di noi 20-30 questa cosa, perché se la sente l'assessore Tommasini poi ce la ruba e ce la dice tra l'altro in modo molto chiaro, in modo molto trasparente, quindi almeno questa cosa teniamocela tra di noi, se no chissà dove va, naturalmente è una battuta. Questa cosa dello scrivere in italiano è una necessità, un obbligo. C'è un mio caro amico che dice: io parlo in tedesco con i tedeschi, in italiano con gli italiani, credo che non conosca il ladino, se no questo pazzo parlerebbe anche in ladino con i ladini. Tu parli in italiano perché vuol dire scrivi sia prosa che poesia in italiano, perché è la tua Muttersprache e per quali altri motivi? Ma diciamo, io devo essere anche onesto, io il tedesco mi arrangio, non so un po', ma scrivere in tedesco sicuramente farei parecchi errori. Quindi scrivo perché è la mia lingua principalmente, ma anche perché l'italiano per me è una lingua molto bella, molto musicale, e quindi è diciamo, una lingua che è apprezzata da tutto il mondo. Quindi scrivo in italiano per quello. E ho un amico però che è di lingua tedesca, e di madre lingua tedesca, e lui scrive in italiano, scrive anche bene, però proprio per amore della sua lingua italiana, quindi può essere anche ci sono dei casi simili, sì. Quindi non escludiamo che Marino possa regalarci anche delle cose in un'altra lingua, perché poi anche se sto per dire un'obietà e mi scusi in anticipo, questo vale per la prosa con una serie di distinguo. Pensare che la poesia abbia solo una lingua mi sembra una cosa talmente costrittiva, quasi offensiva, no? Quasi come ricevere uno sberleffo da una persona non intelligente, ce ne sono in natura, eh? Ogni tanto li incontriamo e si riproducono anche loro, sono, il meccanismo è inquietante, crescono sempre, famosi gattini di una gatta che insomma, come dire, non è la fine del mondo come sobrietà, eccetera. Quindi voglio dire che la poesia ha una sola lingua mi sembra davvero una gabbia, una costrizione e, ripeto, anche un po' un'offesa. Tu concordi? Sì, concordo, anche perché appunto la poesia è, diciamo, io ne sono convinto di questo. Se uno la sente anche in una lingua che magari non comprende completamente, la sa apprezzare, perché ci sono certi modi di esprimersi, soprattutto se uno è bravo a leggere la poesia. Io sinceramente non sono molto bravo a leggere, mi piace più scrivere, però ho delle amiche e degli amici che sono molto bravi a leggere, e quindi indipendentemente dalla lingua che viene usata, diciamo, può essere apprezzata anche da chi non comprende completamente quella lingua. Noi abbiamo fatto un esperimento, quindi abbiamo un esempio pratico di questa cosa qui. A Baden una volta abbiamo proposto il Cantico dei Cantici, che è appunto un brano della Bibbia, è anche strano che sia inserito nella Bibbia, perché è anche un brano dove si parla di amore, quasi di erotismo in certi passaggi, insomma. E comunque abbiamo proposto in entrambe le lingue, c'erano dei lettori sia in italiano che in tedesco, e un po' perché la lettrice in lingua tedesca era veramente brava, e un po' perché si era creato questo clima, diciamo, un po' di fascino, insomma, misterioso, e comunque è stato apprezzato molto, e durante questo incontro è stato appunto letto il Cantico dei Cantici, un po' in italiano e un po' in tedesco, e è stato una serata molto piacevole e molto apprezzata, ci hanno detto alla fine della serata. Sono le 7, abbiamo, chi chiede la parola di casa, se abbiamo ancora una mezz'oretta dobbiamo stringere. Oltre ad essere una padrona di casa squisita e molto preparata, ci deve anche dire queste cose. Quindi direi che a questo punto possiamo, se siete d'accordo, dare la parola a chi leggerà alcune delle poesie. Immagino tu abbia già organizzato, no? alcune letture. Prego, posso chiamare? Chiamato? Ah, io, certo, sì. Allora, E poi magari ne parliamo un attimo, cioè, lasciamo però, cioè, non ce le introdurre, ascoltiamole e poi ti chiederemo magari qualcosa a proposito di quelle che delle composizioni che saranno lette. Prego. Grazie. Scusate un attimo. Prima inizio con questo. C'era un bambino che cantava. C'era un bambino, un po' timido, che cantava con gioia. Cantava a scuola, cantava a casa, cantava con gli amici, cantava in chiesa durante le sante messe. Un giorno di primavera, nel 1971, durante l'ora di canto, il maestro disse che c'era qualcuno che stonava nel coro. Disse a tutti di continuare a cantare, mentre lui passava tra i vari scolari ad ascoltare attentamente. Poi, improvvisamente, disse: «Ah, sei tu che stoni!» Fermò quel bambino, lo fece uscire dal coro, lo mise in disparte e lo fece stare in piedi e continuò per finire la lezione. Quel bambino, mentre era lì, zitto, fuori dal coro, vedeva che gli altri bambini, anche quelli più amici, anche suo fratello, lo guardavano. In lui entrò profonda tristezza, agitazione, ansia, voglia di piangere e scappare, ma restò lì, zitto, fino alla fine della lezione. Capì che non avrebbe più cantato con gioia. L'anno scolastico stava per terminare e quindi nel coro della scuola non cantò più. Aveva 10 anni. Finite le elementari, provò poche altre volte a cantare, durante qualche gita scolastica, sul pullman, ma ogni volta si bloccava perché sempre tornava quella voce: «Ah, sei tu che stoni!» E poi, col passare del tempo, non cantò mai più, nemmeno per gli auguri alle feste di compleanno. Forse, proprio in quel lontano giorno di primavera, inconsciamente aveva deciso di fare il poeta. Quel bambino ero io. E poi vi leggo due poesie. Dove leggo questa poesia? Non la trovo. Anche a caso, anche quelle non scelte. Penna violetta. Voglio essere penna che graffia, che spezza le catene e sfonda le porte delle prigioni, che riesce a ridare le libertà violentemente sottratte ai dissidenti del dio mafioso e bavoso che cerca donne da orgia e vomita l'abbondanza di inutili cibi. Voglio essere penna che graffia i comodi pensieri di chi fa solo il lettore di questa storia d'uomini, assuefatto alla normalità della violenza alle donne e della violenza ai bambini. Voglio essere penna che si fa lancia per sfondare la carne delle coscienze dormienti. Prigionieri, dalla mia scuola si vedeva la tristezza di un carcere, mani tra scure imperiate di finestre senza libertà. Ricordo spesso quelle mani e per questo non provo gioia per condanne, anche se giuste, di banditi e criminali. Provo turbamenti, fastidi e strano senso di impotenza verso il male che c'è sempre. Grazie signora, è stata molto gentile. C'è una seconda possibilità di ascoltare. Prego. Faccio come qualcosa di... Vorrei leggere qualcosa di... Allora, questo riferito a Giovanni Contini, che a me non so ricordare la coscienza di Zen, se siete diversi, qualcosa sì. Allora, lui Giovanni scorre molto del suo tempo in solitudine. Giovanni ama la solitudine, Giovanni detesta la solitudine. Sono queste le sue contraddizioni, ma perché lui stesso alternativamente, continuamente, ama qualcosa di sé e detesta qualcos'altro. Giovanni si piace quando riesce a star bene con gli altri e notare che anche questi, gli altri, si trovano bene con la sua compagnia. Gli piace parlare in modo discreto, col tono calmo della voce, sorridere quando serve, anche con gli occhi, ascoltare anche con le mani. Mani che muove spesso, dando appunto agli altri la sensazione che lui, Giovanni, li sta ascoltando per interesse. E loro, gli altri, capiscono e non lo infastidiscono mai quando lui, Giovanni, si accomiata per rifugiarsi nella sua consueta solitudine. Perché lui è così con la gente. A parlare ci sta per poco tempo, poi torna da lei, dalla sua cara solitudine. Diciamo che le tematiche trattate sia in prosa sia in poesia sono molteplici. Le tematiche trattate dall'autore sono molteplici, diverse tra di loro, a volte contraddittorie, a volte comunque sempre importanti. Io leggerei una cosa così, un momento di... Guarda che non è acceso il microfono. Non sapevo. Dicevo, le tematiche sono molteplici, a volte contraddittorie, a volte comunque sempre coglie l'attimo in modo, secondo me, molto calzante. Allora, questa nel mio mare suona una tromba nell'aria serale, il silenzio dei triangoli azzurrati. Qui si sente profumo di vaniglia che arriva da qualche casa lontana. Improvvisare l'imprevedibile soltanto per sorprendere qualcuno non ha senso, non ce l'ha questa sera. La ruggine non si riesce a staccare da un corpo che è diventato di ferro e non si muove più come saprebbe. Mi inchino, questa sera io mi inchino quando la luna mi passa dal mare. Vorrei leggere una cosa che rende l'idea di quanto siano diverse tra di loro le tematiche, quanta attenzione ci sia. Questa si chiama Matita Nera. Non si fanno ponti senza le braccia degli operai che non contano nulla e che vivono per morire, privi di lusso e di viaggi in cantiere. Dai tombini di città esce del fumo, disegnato da una matita nera. Con l'aria della sera si respira la filosofia dell'inesistente. L'uomo della strada accanto cammina sotto una pioggia di tentennamenti. Grazie, e a questo punto credo che prima vi prego di intervenire, sicuramente avete ricevuto da, da Roberto Marino molti, molti stimoli, molte sollecitazioni belle. Io a questo punto però, ecco, una lettura anche all'autore la chiedo. Cosa ci leggi? Pagina? Pagina 161. Ecco, quelli che ha il libro, come scuola. Mezza luna. Prego. Movimento di lancette e d'ore, inesorabile da più secoli, di storie sature di personaggi. Il tempo lo guardo sulle pareti e lo leggo sui libri e giornali. Vivo, lavoro e studio con calma. Vivo nell'incertezza quotidiana, sempre minacciato dai previsti, e mai, nulla mai è descrivibile con parole, completamente con parole note. Ogni tanto faccio reso conto del dato e del ricevuto, conto i peccati e gli sbagli compiuti. Poi, alla fine di ogni libro, passa una mezza luna nel mio stellato. Vabbè, qui c'è addirittura un po' di Neruda, quindi ormai siamo, siamo persi dietro Roberto Marino e quindi per carità, cioè, siamo davvero molto contenti. E, ci sono delle persone che desiderano intervenire, io vi prego di farlo per dialogare con l'autore. Se ho avuto la faccia tosta io vi prego di assumerla anche. Allora io non so, mi sentite se parlo senza microfono? Sì, sì. Posso chiedere di alzarsi così ci, sì, ci io la sentiamo. Sono disabile, comunque vabbè. Chiedo scusa, allora perché col microfono, grazie. Mi perdoni signora. No, non si preoccupa. E benvenuta. Grazie mille. Allora, buonasera, sono Eleonora. Io dunque ho origini trentine, ma ho vissuto fino a 9 anni fa a Bolzano, dopodiché adesso vivo nelle Marche. Come è acceso e poi il microfono e va bene. La mia... Ah, è spento? C'è spento. Sì, ma tanto se mi sentite io anche abbastanza alto, cioè un numero abbastanza alto, non c'è problema, ok? Grazie mille, Ale. Dunque, la mia domanda era questa. Io appunto vengo da Trento, però comunque sempre a Bolzano. La realtà che avete un po' descritto su, io adesso parlo soltanto dal punto di vista poetico, poi scriviamo se non si parla di poesie, era su un po' il complesso di testare a fare Bolzano, no? Io ho una visione un po' più, forse un po' più scettica rispetto al tipo di quasi visione di via che un po' viene dato di Bolzano, forse perché adesso vivo da 9 anni nelle Marche e vedo un po' in maniera un po' distaccata dall'esterno questa città che non la ritengo così come l'avete descritta. Mi rendo anche conto che comunque vivere dentro l'Unterland, perché avendo insegnato 30 anni nei licei ho avuto moltissimi studenti che venivano appunto da Enna, San Luogo, quindi della Bassa Tesina. E mi rendo conto che è veramente un contesto molto differente, molto diverso, perché c'è veramente questa convivenza in maniera anche molto sentita tra le due etnie. Cosa che secondo me a Bolzano invece io non ho mai percepita, ma per vari motivi. Intanto perché le scuole sono sempre state divise e non c'è mai stato nessun tentativo di unificazione. Io parlo di una generazione un po' vecchia, no? Nel senso che io ero in politica nel 77, quindi parliamo di tanto tempo fa, gli scioperi li facevamo solo gli italiani, nelle scuole tedesche non c'era neanche adesione, quindi non c'era assolutamente rapporti tra le due gruppi etnici. Diciamo che ha fatto dei passi avanti negli ultimi 10 anni, forse Bolzano, ma siamo ancora molto lontani dall'idea che avevi dato voi prima. Rimango dell'idea che l'Unterland è veramente un mondo a sé rispetto all'Alto Adige, diciamo, della provincia reale. Questo, vabbè, era una mia considerazione rispetto alla vostra visione. Quindi io ho un po' anche questa ambivalenza, che amo e detesto un po' Bolzano, no? Proprio per questo tipo di gioco un po' strano, no? Su questa cosa. Invece a tutte le poesie, devo dire, ho apprezzato moltissimo le poesie, soprattutto, non me ne voglio la prima signora, ma non so se è stata una scelta delle altre, ma mi sono piaciuto molto, molto quelle che ha letto la signora dopo, forse perché erano anche stili differenti, forse le prime mi sembravano più quasi prosa, mentre le altre mi sembravano già più poesia, non so, forse è una sensazione personale, grazie. Sì, grazie per questo intervento. Devo dire che appunto nel libro, soprattutto nella parte in prosa, viene sì descritta in certe parti, diciamo, in modo sì, diciamo, piacevole, volgare, però vengono date anche parecchi pugni allo stomaco se lo si legge, perché vengono fatte delle critiche. C'è da dire una cosa, che però se si cerca a Bolzano, soprattutto in quest'ultimo periodo, si trovano dei momenti di convivenza tra i due gruppi che decenni fa non c'erano. Faccio un esempio concreto: io da tanto tempo, da quando ero giovane, che non partecipavo a cortei di protesta così politici, pur essendo impegnato in politica. Però tempo fa, il 25 di aprile, mi sembra che fosse proprio, c'era un corteo antifascista. Ho voluto partecipare un po' per quello scampo, perché sentivo la motivazione, soprattutto in questo periodo dove si vedono dei risvolti poco piacevoli. E in quel contesto là, piacevolmente, ho notato che tra i manifestanti c'erano parecchi giovani, ovviamente, però sia di lingua italiana che di lingua tedesca. E alla fine si sono trovati in una piazza di Bolzano e hanno fatto riassunto, hanno fatto degli interventi in entrambe le lingue. Questo è stato molto bello, molto apprezzato. Quindi se si cerca, ci sono adesso dei seri momenti di condivisione. Se si cerca. Non cercate, sì. Non solo questo. Io intanto ringrazio la signora, essendo mia madre della bassa Tesina, posso che darle ragione, perché fino a quando ero piccola ho percepito questa zona come meno la volta culturale di questa Adige, quello dove le lingue venivano parlate e percepite e amate anche adesso italiano tedesco, per lo meno ragioniamo, ma insomma magari si potrebbe fare di più anche per quanto riguarda l'inglese. Le nuove culture sicuramente aiuteranno, perché stanno portando una nuova linfa, una nuova vita, che io cercando più in autobus e vedo, mi fanno anche tanta tenerezza, perché vedo ragazzini delle scuole superiori di vari colori, anche interagire tra di loro molto, molto in italiano, in tedesco, a volte in cosa, a volte anche in inglese, a volte nella loro lingua, insomma questa realtà sta migliorando, si sta aprendo molto. Io ho studiato a Innsbruck e allora molti anni fa eravamo una buona, era un piccolo gruppo, allora c'è un gruppo grande, venendo da un contesto prevalentemente italiano, tendevo a parlare più italiano, però mia mamma era abbastanza in italiano tedesca, e io ho trovato un questo piccolo microcosmo che è un po' un segnale di cose che adesso vedo che si stanno realizzando, questo c'è qualche modo. Poi la poesia, di Leonardo Tonino, io credo che possa servire. Già ci sono campi in cui, ad esempio, io trovo anche cose musicali, la musica unisce i conservatori e nel discorso musicale, la lingua, la musica, quindi si trovano persone giovani e giovanissimi, quindi da tutto il mondo, e qui trovano anche l'interno fertile. Per quanto riguarda la poesia, anche tutto sommato un'altra lingua. Poi abbiamo già avuto dei tentativi, abbiamo Eugen Galasso, che non è più qui ma a Firenze, immagino, che scriveva in italiano tedesco. Io stessa ci ho provato, ho provato a fare un po' di rime, un po' così, un po' là, e dove si può tentare, si potrebbe tentare una poesia in qualche modo di lingua, non so, quindi sicuramente potrebbe essere una grossa opportunità, andrebbe sfruttata al massimo. Sì, ma io se l'interrogatorio, mio nonno scriveva in italiano e tedesco, nato in Vorarlberg, e le sue poesie sono bilingue, per cui vuol dire è quasi più facile. Grazie. E mio nonno era Augusto Goio, ed era appunto di Trento, e ha scritto delle poesie in tedesco e in italiano, una cosa che io non sarei più in grado. Quindi è strano come ci sia stato col fascismo di mezzo proprio un vuoto dal punto di vista culturale, quindi chiaramente una divisione netta, e quindi è più facile quasi che le vecchie generazioni, come anche mia mamma, 90 anni, che erano quasi più aperte loro di una faccia di mezzo che siamo noi cinquantenni, che abbiamo subito un po' questa frattura tra le due secondo me lingue e le due culture. Quindi noi dovremmo riuscire a ricongiungere adesso probabilmente con le nuove generazioni, quindi ci somiglia anche la signora, per ritrovare una unità di linguaggio che va oltre, ma che sia universale dell'arte in generale. No, volevo solo rispondere brevemente che il fascismo ha segnato la frattura, cioè, quindi l'italiano è stato il posto. Dopo, adesso vi faccio parlare per un'associazione storica, penso che sia quella della storia contemporanea del Novecento, quindi insomma, dopo c'è stato il problema di chi era la tua tesi di uno studio dietro, quindi c'è stato un periodo di grande confusione, c'erano grandi, non so qui ovviamente a dilungarmi, perché io credo che adesso, da una decina di questa parte, si stia veramente creando l'atto anche quello che Se non ci sono altre, ma questo non funziona, ma sì, funziona, scusate, allora sono, sto diventando sordo rapidamente. Certo, il linguaggio universale della poesia è sempre stato, come dire, acquisito, è vero, quello della musica non ne parliamo, questo è un posto dove si esegue molta bella musica, soprattutto colta, soprattutto classica, ma e naturalmente da camera qualcosa si sente anche nella cosiddetta musica giovane. Ma vedete quanta emozione e quanta profondità hanno scatenato gli scritti di Roberto Marino, la signora che ha ripercorso in modo molto attento quello che è successo in questi decenni, con alti e bassi molto profondi. Qualche anno fa ho intervistato un sociologo locale, a quale ho chiesto cosa è cambiato in questi anni, per esempio a scuola, lo scenario era quello appunto delle scuole tedesche e italiane. Lo ricordo che nel frattempo c'è questo esperimento delle scuole Langer, che però è appena iniziato e che è sintomatico sia stato avviato nel 2014, che vuol dire con molto ritardo. E questo signore, questo ricercatore mi ha detto: ma per quanto riguarda i rapporti tra bambini e ragazzi di Muttersprache italiana e di Muttersprache tedesca a Bolzano, Bolzano capoluogo, negli ultimi 30-40 anni non è cambiato granché. Naturalmente il mio giornale ci ha fatto il titolo, perché ogni tanto alimentiamo delle speranze o delle ansie, degli afflati che poi si rivelano purtroppo troppo in avanti e comunque prematuri. Io ho un ricordo velocissimo, prima di dare la parola ancora all'autore. Un po' di anni fa a Bolzano, forse qualcuno c'era, ci sono stati i funerali di Alexander Langer. Molti di noi sono arrivati da Roma o da Berlino, molti erano i suoi amici che erano rimasti a vivere a Bolzano. Ci sono state alcune commemorazioni, anche se questa parola non rende l'idea, perché sono state molto di più alla chiesa dei Cappuccini. Ci sono stati brevi interventi durante questo rito religioso, in tedesco, in italiano, in inglese, in francese, credo anche in altre lingue. È stata proprio una Babele linguistica e di affetti che ha salutato Alex, che era morto un po' di giorni prima. Forse questa è una delle cose che ci autorizza a qualche, non dico ottimismo, ma a qualche interesse un po' più sereno verso il futuro prossimo in questa terra così storicamente e geopoliticamente complicata. Direi che a questo punto, se Roberto è d'accordo, gli chiediamo, prima di salutarci, di leggere una ultima poesia, se sei d'accordo. Grazie. Allora, parliamo di nonne, così finiamo parlando appunto del tema forse principale che è esposto anche nel libro. La donna che non c'è, non lo si sente quasi mai parlare, il ragno nell'angolo della casa, che lavora senza farsi pagare. Da lì guarda il muoversi di persone, predatori con facce da vittime, ed aspetta l'aria primaverile, delicata, profumata di fiori, e lo sguardo di una donna che non c'è e non si sa se vorrà ritornare. Ecco, grazie. E questa era una delle di Roberto Marino, ne abbiamo parlato con l'autore, un libro prezioso, importante, ne aspettiamo molti altri, e grazie a tutti voi e grazie a Roberto. Volevo solo ringraziare nel finale gli amici poeti di Mutala che sono intervenuti, che hanno letto Anna Chirodi, Emilia Marini, e poi c'è tra noi Valentina Saite, che è l'autrice della copertina e dei primi disegni che sono all'interno del libro. Voglio dire una cosa che poi leggermente ho saputo, che questa copertina è il centro storico visto da Ponte Tavola, e qui si vede la casa di pazzi di Santo Forcato, che ringrazio di essere intervenuto. Che cosa hai fatto per avere questa? Voglio ringraziare anche l'amico Giorgio Pirelli, che ha voluto venire a essere presente questa serata, e grazie a Giancarlo Lici. Grazie a voi.